1926 l'anno di nascita, quindi 92 anni quest'anno. Complimenti. Ciao nonna. Ciao nonna. Vita, che bello. E infatti devo dire che ti invidio un po', non solo che soprattutto per il fatto che hai ancora la nonna, perché io ne avevo due come quasi tutti e ahimè sono una è andata che avevo 14 anni, la seconda invece da non moltissimo e mi mancano terribilmente entrambe. Però io la condivido, la nonna. Certo. Ormai è un po' la nonna di tutto il mondo dell'arte. No, infatti è diventata una superstar, dicevi. È lei la star, sì. Che addirittura siete andati a TV 2000. TV 2000, che è la TV del Vaticano, lei sembrava di andare nello spazio, andare a Roma, dal Papa. Perché... Ma dopo siete andati a vedere il Papa? Quello ci manca, ma secondo me ci arriviamo. Ok, no, e non ha detto già che siamo qua, tiriamo fino a Monterotondo, no? Ok, dunque, e come allora parliamo prima di tutto di te, da dove arrivi, perché chissà, aspetta che vado a vedere nella lettera, nella bio. Nata ad Arvignano, in provincia di Vicenza, Giffo, adesso Giffo è sempre il nostro ascoltatore, è vicentino, lui ci ascolta online, magari vi conoscete anche, anzi forse siete quasi coetanei. Vive e lavora a Bologna, laureato in Esthetical Dance Art con Luciano Nanni, grande, con cui ho cenato non molto tempo fa. È informissima lui, eh? Sì, un saluto anche a Luciano. Fantastico, anzi può darsi che dopo lo vediamo, dopo poi ti racconto dove ti porto. Si occupa da 10 anni di arti visive come critica d'arte, curatrice indipendente, collabora con i viste di settore. Docente di storia del design alla Laba di Rimini. Wow! Ha ideato, fondato e diretto Setup Contemporary Art Fair, cosa che magari appunto la gente si è già dimenticata, ma quella è stata un'impresa titanica. Assolutamente. Io non sì. vi avrei dato, cioè quando ho saputo che facevate questa cosa, tu Marco e Simona, non vi avrei dato una lira, invece è andata benissimo. E invece è andata. È andata, è certo. No, lo so benissimo. in tutti i sensi è andata. Però è stata un'esperienza importante per te, certo. È stata... Fantastico, sono stati 5 anni meravigliosi. Infatti, devo dirti. Perché poi ti conosco, cioè, grazie, credo, soprattutto a Setup, ti conoscono tutti. Cioè, sì. Cioè io dico Alice Zannoni, non c'è nessuno che mi dice non so chi sia. No, potrebbe essere il cognome, Alice Setup. Esatto, infatti. E dunque, cosa combini adesso, a parte girare il mondo presentando questo fantastico libro? Ah, sono sempre in giro a presentare il libro e poi ho ripreso a fare la curatrice a tempo pieno, per cui mostre. Mostra, oltre al prossimo libro. Qual è la prossima mostra che stai curando? La prossima mostra? No, non posso dire. No, cavoli, siamo ancora in preparazione segreta. Vediamo se portiamo qualcosa per l'Art Week. Ah, certo, l'Art Week. Sì, no, infatti siamo sempre tutti molto in anticipo, no? a lavorare su queste cose. Ho sentito Lorenzo Balbi che mi ha detto che è già troppo tardi per essere in qualunque... Ci stiamo lavorando. Ma infatti, è bene lavorarci. Bene, allora a questo punto cosa facciamo? Se mettiamo un gran pezzo. Siccome... Ho visto che nell'archivio di Radio Città Fujiko, che ci ospita e li ringraziamo, ho trovato il disco del 1977 dei Neck. Anziché mettere My Sharona, che conoscono tutti, pensavo proprio di mettere questo. Dai. Whisper in the night, tell her she's the one. But you'll never know why she wanna go and run. That's what the little girls do to you, to you. Oh, that's what the little girls do to you, to you. Does she tell you lies? Apologize, does she make you crawl? When you're on your knees, then you're really not a man at all. That's what the little girls do to you, to you. Oh, that's what the little girls do to you. dancing in your dreams. Yeah, she plays her part. If you let her go, she will break your ego and your heart. That's what the little girls do to you, to you. Oh, that's what the little girls do to you, to you. Yeah, that's what the little girls do to you, to you. No, devi continuare a parlare. Perché è così, no? Coxo spaziale è così, senza che nessuno ti dica niente. E finisce il pezzo. Finisce il pezzo, noi non ce ne accorgiamo, e ma continuiamo a parlare. No, mi raccontavi questa cosa del Fontana ricucito. Ma sì, perché essendo il mio interlocutore completamente a digiuno di conoscenza artistica, e avendo, facendo parte di quella generazione comunque molto pratica, che risolve le cose con praticità, certo, non potevo andare lì e fare i discorsoni astratti, quindi ho avuto bisogno proprio di cose tangibili. Un capitolo di questo libro è dedicato a Fontana, e siccome Fontana, di fronte a un Fontana tutti dicono vabbè, ma lo so fare anch'io, ero certa che la nonna avesse dicesse la stessa cosa, allora ho detto bene, benissimo, facciamolo anche noi il Fontana. E all'inizio non voleva tagliare, perché ha detto, ma come, ma la roviniamo noi una tela così? Ha detto, vai, taglia, nonna, dai. Poi ha preso gusto e mi è sembrata un ninja, ha tirato 6 fendenti e si è divertita da morire. A quel punto siamo riusciti, avendo il Fontana in nostro Fontana in mano, a capire perché Fontana è così straordinario, pur avendo fatto un gesto apparentemente semplice, apparentemente replicabile, che però io definisco un gesto maestoso. Allora, poi ti stavo raccontando che con gran soddisfazione quella che all'inizio è stata definita una tela sbregà, che in dialetto veneto vuol dire una tela strappata, invece è appesa in camera sua, e non solo, perché nell'appenderla ha sostituito un quadro che io ho 37 anni, lo vedo da quando sono nata, è la Madonna di Monteberico. Quindi Fontana ha sostituito la Madonna, e questo è un gran segnale. Cavoli! Fantastico, no? È fantastica anche la foto in quarta di copertina di Vita che... ma lei non fa Zannoni anche lei di cognome? No, lei è Urbani. Ah, ok, no, perché Vita Zannoni era un po'... era un po' da zuzzurellone chiamare una bambina Zita se il tuo cognome è Zannoni. Allora, dire, fare, baciare, lettera, testamento. Io sta cosa qua non l'ho mai capita, cioè, perché dire, fare, baciare, ok, ma lettera e testamento, cioè sto gioco qua, io me lo ricordo a mia madre quando me lo diceva, ma non ho mai capito come funziona. Che cosa, raccontamelo tu. Allora, vabbè, questo rientra sempre nelle solite cose pratiche da portare in campo. E tutto sommato, se ci pensi, l'arte non è così diversa. Dire, fare, baciare, lettera e testamento era un giochino per pagare pegno, no? Quindi mi pare di ricordare che uno diceva, tirava fuori una mano, insomma, sceglieva come pagare pegno. E a me è servito perché tutto sommato l'arte è un dire, fare, baciare, una lettera, un testamento. E di tutta questa cosa la cosa che mi interessava di più era la parola testamento, no? Perché tutto sommato questo libro non è altro che, da un certo punto di vista, anche un testamento che io raccolgo. È il testamento della nonna, no? Che sono 92 anni di vita, di esperienza e di storia che lei mi ha dato in cambio di delle nozioni che poi le ho dato io. Con dire, fare, baciare, lettera, testamento abbiamo introdotto la performance. Pensavo che si scandalizzasse, perché l'ho fatto vedere a l'Abramovic, quindi anche i nudi, Ulay. Invece l'ha presa bene. Subito mi ha chiesto, ma stanno facendo il cinema quei due lì? E la tua risposta? No, nonna, stanno facendo arte. Ok. E dunque alla fine ha capito. Cioè, sì, alla, sì, sì. In tutti questi... Ma... Ah, c'è un capitolo che si chiama Non t'arrabbiare. L'avevi fatta arrabbiare? O è lei che ha fatto arrabbiare te? No. Non t'arrabbiare è un gioco, a proposito di giochi. Non so se te lo ricordi, era un gioco in scatola. No, non me lo ricordo. Sì, perché siamo di generazioni differenti. Io sono molto più vecchio. Io ho figlia degli anni 80. E questo era un giochino che non potevi non arrabbiarti. Io naturalmente mi arrabbiavo sempre. Ed è un po' quello che fa Cattelan tutte le volte che fa un lavoro. Qualcuno si arrabbia, che sia a destra, sia a sinistra, bianco, rosso, verde, chiesa, cattolici, non cattolici. Comunque lui fa arrabbiare qualcuno. Quindi quel capitolo iniziò con il gioco Non t'arrabbiare. E quando io, perché sapevo che l'avrei provocata, quando l'ho fatto vedere il Papa schiacciato dal meteorite, lei che è una donna di fede, profondamente, veramente cattolica, lei subito mi fa: mamma mia, ma è successo per davvero? No, gli faccio, non è una scultura. E poi ho continuato, gli ho fatto vedere anche Him, che è il Hitler in ginocchio, e ho detto: qua mi ammazza. E invece lei mi ha guardato e mi fa: tesoro mio, di fronte alla morte non si sa la sorte. Io dico: no, ma sei l'unica che non si arrabbia di fronte alle opere di Cattelan. Grande. E alla fine comunque abbiamo portato a casa il risultato, perché io ho detto: senti, ti ricordi quando tu mi minacciavi di tirarmi lo zoccolo? Lei mi ha sempre minacciato: ti tiro lo zoccolo. Poi non mi ha mai beccato, per fortuna, ma secondo me però te l'ha tirato. Lo tirava, ma non mi prendeva. Se mi prendeva e le faccio: vedi, Cattelan fa la stessa cosa. Ogni volta che lui fa un'opera tira una zoccolata al mondo, fa apposta a non pigliare qualcuno. Certo, poi magari qualcuno un po' si arrabbia, no, per questo gesto, però è ironia, con un po' di ironia, se ce l'abbiamo anche tutti e guardiamo i suoi lavori con lo stesso approccio, forse capiamo che una zoccolata ogni tanto non fa mica male, insomma. Torniamo a noi, ma come ti è venuto in mente di fare questo libro innanzitutto? Come mi è venuto in mente? Mi è venuto in mente, e questo proprio è l'inizio, fra l'altro, il primo capitolo in cui lo racconto, perché stavo leggendo in giardino il giorno del compleanno di mia nonna, quindi erano 91 anni, aspettavo i preparativi, e dopo un po' viene lei vicino a me e si mette anche lei a leggere le sue cose. Le sue cose sono Bibbie con dentro 8500 santini. E si siede vicino e mi passa un santino, io lo prendo, lo leggo, le dico che le parole sono molto belle, d'altronde le parole di un santino sono sempre molto belle. Non ho potuto fare la stessa cosa, cioè quello che il suo è stato un gesto di condivisione di un momento e non tanto per indottrinare, si è troncato lì, perché io stavo leggendo di uno squalo sotto formaldeide, che è un'opera d'arte, vale 12 milioni di dollari, ma con che coraggio glielo dico? E quindi gli ho detto: guarda nonna, bisogna che la risolviamo sta cosa qua, ti faccio delle lezioni d'arte. E lei mi ha detto: va bene. No, io gli faccio: guarda che non sai dove andiamo a imbucarci questa cosa qua. Dobbiamo partire proprio dall'inizio, da che cosa è arte. E lei mi ha dato una risposta che io, nessun mio studente mi ha mai dato, quindi la migliore risposta che io potessi ricevere. Lei mi ha detto: Alice, l'arte è nella nostra testa. Tutto da quando si nasce, se vuoi, è arte. Ho detto: nonna, benvenuta nel club, iniziamo. Esatto, cavoli, beh, era già prontissima, capito? Quindi come è nato? È nato da un vuoto, dall'incapacità di comunicare con una delle persone a me più care, una delle persone a me più semplici. In quel momento la mia laurea, il mio master, tutto il mio fare non è servito a niente, perché non ho saputo relazionarmi con la semplicità. Necessità di comunicare, necessità di aprire le porte di questo mondo che è diventato una nicchia, quando in realtà l'arte si occupa della vita. Appunto, no, infatti quello è una cosa che a me preme moltissimo. Infatti Coxus Marziale di fatto è una piccola risposta che cerco di dare proprio a questo volersi chiudere in una nicchia, perché come tu ben sai, essendo tu un'addetta ai lavori, per tantissimi addetti ai lavori preferiscono che l'arte sia una cosa di nicchia. Non ho ancora capito perché dovrebbero preferire questa cosa qua, però la tendenza è questa. Se vuoi ne possiamo parlare. In realtà è molto semplice, perché i collezionisti devono essere pochi ma buoni. Ma non è una questione di collezionismo, io ti parlo di fruizione dell'arte. Ah, certo. Perché quando sento una persona che dice: sì, vabbè, però tanto non la capisco, sei un passo in prima ancora. Io mi accontenterei se uno guarda una vetrina. Non tutti possono permettersi la borsa di Louis Vuitton da 4.000 euro, però in vetrina la guardi. Certo. Allora, non ti poni il problema se la capisci o non la capisci. No, e neanche se è bella o brutta. Ah no? Beh no, dai, magari quello c'è un po', qualcuno se la pone questa cosa. Insomma, sì, sì. Beh, insomma, sul concetto di bellezza. Certo. Però voglio dire, quando uno guarda un film, nessuno si pone il problema di capire la cinematografia, di essere un esperto di cinematografia ed essere in grado di giudicare un film. Uno guarda un film, gli piace o non gli piace, dice: questo attore è un cane, eccetera. Mentre invece con l'arte c'è questa sorta di soggezione inspiegata. Ma certo, perché dimmi una cosa, Stefano, ma tu vai nei posti dove ti senti a disagio? Sì. Sì, beh, la maggior parte della gente non va dove si sente a disagio. Di fronte a un'opera d'arte, d'arte contemporanea, credo che la maggior parte della gente, quindi non addetti al settore, non capendo, si sente un po' scemo. Dice, sì. E allora non vado più, preferisco andare allo stadio, quindi capisco che quando la palla entra nella porta, gol, esulto, semplice, facile. Certo. Certamente non è un mondo facile quello dell'arte, ci vuole un minimo di sforzo. Sì. Da parte del fruttore. In realtà questo sarebbe da trasporre a tutto, se non fosse che non è così, perché anzi questa ricerca di semplicità totale su tutto fa sì che poi semplifichiamo fino alla fine non capire politicamente niente di quello che succede. Semplificare ma non banalizzare, questa è stata la cosa difficile. Esatto, no, infatti penso che tu abbia fatto, adesso penso che tu abbia fatto un lavoro fantastico, perché ahimè, malgrado tu mi avessi dato il libro una settimana fa, io non ho avuto il tempo di sfogliare, di guardarlo, appunto, ma ne ho la certezza, perché ho grandi amici molto cari e molto bravi che mi hanno parlato benissimo di questo libro. Grazie amici. Esatto, grazie amici di Pasquini. Adesso ti faccio una domanda. C'è qualcuno che ti ha detto, ma perché hai fatto un libro così divulgativo? Nessuno ti ha recriminandomi con l'azione? No, esatto. Assolutamente, tutt'altro. Okay. Tutt'altro. Devo dirti la verità, gli addetti al settore, cioè, si leggono il libro e dicono, oh, che carino, simpatico come la Zannoni ha spiegato questa cosa, che nessuno addetto al settore ha puntualizzato negativamente, anzi mi sono arrivati dei grandissimi consensi da persone di statura, statura. perché le persone alte di statura comunque provocano più soggezione rispetto a... Ho capito, fantastico. E poi di chi altri hai parlato in questo libro? Ci sono 15 capitoli. Partiamo con Duchamp e parliamo della genesi dell'opera. Abbiamo Manzoni, abbiamo l'Abramovic. Cosa ha detto della merda artista di Manzoni, tua nonna? È stata esilarante la scena, perché quella è stata una lezione proprio che è cominciata a bruciapelo così. Nonna, una lattina di merda è bella? Lei mi sgrana due occhi e mi fa, guarda che non ho capito. E faccio, cosa dai, ti scandalizzi perché ho detto merda? Lei mi ha detto, no, guarda, ne vedo di tutti i colori in televisione. Allora gli faccio, allora qual è il problema? Bello vicino a merda? Lei mi guarda e mi fa, no cara, perché pensava che io la imbucassi, invece lei ha imbucato me. Mi risponde, guarda che io per avere un bel orto ho bisogno della merda, quindi per fare il bello ci vuole la merda. Hai capito. Quindi per dirti, insomma, la filosofia con cui poi prendeva quelle che tutto sommato io ho scelto sono opere molto provocanti. Certo, ma e dunque come l'hai risolta con Manzoni? Qual è stato il suo risponso? Allora, con Manzoni a un certo punto dice, guarda che comunque è qualcosa di, come se l'artista avesse messo qualcosa, perché con Manzoni affrontiamo il concetto di bello, no? Infatti la provocazione mi serviva sulla parola bello. Disquisizione che poi continua e devo arrivare a un paio di jeans. Vi racconto l'aneddoto. Qualche anno fa io le ho lasciato un paio di jeans tutti strappati da lavare. Mi sono tornati perfetti, lavati, stirati e rammendati. Esatto. Io gli faccio, senti nonna, ma dai, ma insomma, ma me li hai rovinati, no? Lei mi ha detto, guarda, i matti vanno in giro con i pantaloni così. Però sono belli, vedi, in quel momento erano belli, quindi una cosa che tu non reputi bella in realtà lo è. Quindi poi attraverso questi paio di jeans siamo tornati a Manzoni, che gli faccio, guarda, vedi, è come se avessi scatolato qualcosa di sacro. Lei mi fa, Alice, sarà bello, sarà brutto, costerà anche schei, cioè avrà un valore... Certo. Va bene tutto, ma sacro neanche per sogno. però ha capito, ha capito l'operazione, insomma. Io una volta l'ho tenuta in mano una... Che cosa? Una, una lattina. Una lattina di merda di Manzoni. Devo dire che no, sacro effettivamente anch'io non ho... Mi ha sorpreso che pesasse così poco. cioè è proprio leggera, cioè dici una, penso sia... evidentemente aveva mangiato leggero. Comunque sapere che una, appunto, una piccola lattina di merda costa 245.000 euro, forse 75 addirittura, sì, appunto, no, però sì, no, effettivamente Sacro con Manzoni lì ha inscatolato una cosa sua, insomma, se l'artista è sacro, ecco, anche, appunto, anche il suo prodotto non solo intellettuale ma anche fisico, intellettualizzato, cioè, lo diventa. Devo dire che in questo una cosa buona di questo periodo di merda, secondo me, è proprio quello, che l'artista non è più sacro. E secondo me questo non... sì, questo non è... In fondo lo diceva già Manzoni con questa operazione. Infatti, e questo non è una cosa negativa. Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two, three, four. Get up. Get on up. Get up. Get on up. Stay on the scene. Get on up. Like a sex machine. Get on up. Get up. Get on up. Get up. Get on up. Stay on the scene. Get on up. Like a sex machine. Get on up. Get up. Get on up. Stay on the scene. Machine, get on up. Wait a minute, shake your arm, then use your palm. Stay on the scene, I like a sex machine. You got to have the feeling, sure as your bone. Get it together, right on, right on. Get up, get on up. Get up, get on up. Get up, get on up. Shake your money maker. Shake your money maker. Shake your money maker. l'angolo della menzione. Devi sapere che Alice, che questa trasmissione ha anche delle rubriche, e una di queste si chiama appunto l'angolo della menzione. Però prima volevo, che mi sono dimenticato, lo dovevo far partire subito all'inizio di questa puntata, era questa. Arte contemporanea. Oh, visto che stasera parliamo di arte contemporanea, è bene che ci sia il jingle dell'arte contemporanea. Invece, per quel che riguarda l'angolo della menzione, abbiamo semplicemente due concerti che ci sono gratuitamente al Goethe domenica. Aspetta un po', dov'è? L'ho già persi. Allora, domenica 16 dicembre alle ore 17, rassegna teatrale musicale 900 Regen, a cura di Dario Turbini, Minetti di Bernhardt in forma ridotta interpretato da Dario Turbini con intervalli musicali eseguiti da Silvia Salfi soprano, Ursula Scià violino e Matteo Matteuzzi al pianoforte. Questo è ad offerta libera e questo è al Goethe Institute di via, non mi ricordo più e non l'ho scritto, ops, e vabbè, succede anche così. Aspetta che mandiamo anche il, dove è andato? Ho già perso tutto, cosa succede? Eccoci qua. Ah, che fatica, non c'è Fedra oggi, si sente? Questo. Mentre invece, sempre domenica, sempre al Goethe Institute, che è lì, come cavolo si chiama quella via? È lì vicino, non ti so aiutare. Vicino a Piazza San Francesco, un po' più in là. Il secondo concerto, sempre domenica, però alle 21, Mitteleuropea Expressionism, da Vienna a Berlino passando per Praga, concerto quinto, un capodanno mitteleuropeo a cura di Concordanze, con musiche dei fratelli Schrammel, dei fratelli Strauss, Mahler e Dvorak, trascrizioni originali e in prima assoluta, ad ingresso libero sempre. E così è finito l'angolo della menzione. Possiamo ritornare al tuo fantastico libro, però prima devo abbassare quello e dire alla musica di sottofondo di ripartire, che però non la trovo più. Fantastico. Allora, Alice, raccontaci un altro aneddoto intanto che io cerco la musica di sottofondo. Allora, guarda, vado con un'altra cosa, perché devo dirti, c'è stato molto da ridere su questo libro. Facendolo, è proprio l'esperienza. L'arte astratta. Arte allora, astratta. Le faccio vedere Pollock e chiedo che cosa vedi. E lei mi fa, guarda, sinceramente, boh, un groviglio di rovi, una cosa del genere. Allora gli dico, guarda, fino adesso abbiamo sempre visto delle opere d'arte che in qualche modo rappresentano il reale, quindi una mano dipinta, una casa scolpita, insomma tutte cose che con un referente specifico del reale. Beh, certo, mi fa lei, assolutamente. Beh, faccio devi sapere che non è così. L'arte può anche rappresentare qualcosa che non ha nessun referente con il dato reale. E lei fa, mamma mia, sai che non lo sapevo. Faccio, nonna, si chiama arte astratta. Poi mi viene il dubbio e le faccio, ma senti, tu sai che cosa vuol dire astratto? E lei mi guarda e mi fa, beh, ma scusa, è certo che lo so, vuol dire che faccio una pittura, aspetto che si asciughi e domani ne metto un altro strato. No, nonna, non astratto. Astratto. E però è stata durissima da fargli capire sta cosa dell'astratto. A un certo punto, eppure una persona religiosa non dovrebbe avere un grosso problema. Ma infatti problema poi ne parliamo anche di questo, nel capire il concetto di astrazione, no? A un certo punto gli faccio, senti nonna, a proposito, le preghiere che tu dici sono roba astratta. Lei mi fa, ma sai che io non ho mai sentito le preghiere astratte. Fantastica. Allora abbiamo fatto, però anche solo padre, cioè la Trinità, quello è un concetto astratto. Eh sì, però è la definizione di astratto che non definisce il concetto rispetto a quello che è la sua conoscenza. Allora facciamo, partiamo dal contrario, faccio, tutto quello che è concreto non è astratto. Allora poi le faccio vedere Pollock, le dico, guarda, devi sapere che non è più con il cavalletto, non usa più il cavalletto, ma fa la pittura in orizzontale. Ti faccio vedere una foto del pittore in azione. Lei fa, mamma mia, buttava il colore per terra. Si vede che era un po' svogliato. Fantastico. E gli faccio, no, ti spiego. E lei mi fa, ma sì, dai, non ti preoccupare, è un genio anche se era svogliato. È un po' come il dottore che tu vai, fa la firma talmente veloce che non si capisce neanche quello che è scritto. Poi però anche lì siamo pian piano entrati nell'astrattismo, partendo dall'astrattismo dal primo, quello quindi di Kandinsky, per arrivare poi Apollo Carocco, e devo dire che anche lì ha apprezzato tutto. Diciamo che la fortuna di aver avuto un interlocutore di questo tipo, cioè ho giocato, mi è risultato, per quanto difficile e complessa l'operazione, è stato facile perché non aveva pregiudizi. Che effettivamente uno dei drammi di cui noi facciamo esperienza proprio questo del pregiudizio, esatto, altrui, no? Quindi mi ha demolito, perché nel momento in cui ti dice che Pollock buttava il colore, mio Dio, era svogliato, in 3 secondi ti ha demolito il lavoro di Pollock, ma non per il gusto di demolirlo, perché effettivamente quello è quello che vede una persona che non sa, che non ha nessun costrutto. Certo. E quindi da lì poi il gioco mio è stato quello di rimontare la credibilità di un concetto, di un pensiero espresso attraverso un certo modo di fare. E con Damien Hirst com'è andata? È stato complicato, però quello devo dirti che in qualche modo ci ha accompagnato dall'inizio alla fine, visto che tutto è partito da questo libro che stavo leggendo di Damien Hirst. Ne abbiamo riparlato poi in una lezione estiva, questo è un altro episodio che racconto. In quel giorno si affrontava il concetto di contemporaneità, no? Quindi che cos'è la storia, che cos'è la contemporaneità, e se si può definire, come si può definire sia dal punto di vista cronologico che concettuale l'arte contemporanea. Finisce la lezione, nel frattempo io mi cucco via sempre 2-3 santini, perché io do a lei e lei deve restituire, certo, naturalmente. E siamo sulla spiaggia di Sottomarina, e ogni anno noi andiamo, poi ci sono come tutte le i litorali, quelli che vendono gli anelline, collanine. Quell'anno lì mi spinge verso, ce l'ho sotto braccio, un tipo che vende i gonfiabili, sai, i fenicotteri giganti, quella roba lì. E io sono un po' perplessa dentro di me, cioè, dico la verità. Mi chiedi quanto costa il coccodrillo, mi dice. Allora io dentro di me penso, cavolo, la stiamo proprio perdendo, cioè, no? Allora comincio, quanto costa? Tanto per darle soddisfazione, no? Nel senso che un po' la secondavo, anzi in realtà. E ecco, 20 euro, vabbè, faccio nonna, dai, ci pensiamo dopo, sai la classica frase che se tu, certo, hai un figlio, no? Esatto. Cioè, dopo ripassiamo, casomai. Lei mi fa, beh scusa, cioè anche un po' risentita, pianta il bastone sulla spiaggia e mi fa, perché non posso comprarlo? Io voglio fare lo spaventapasseri per il mio orto. Allora io la guardo, sgrano 2 occhi, io non so che faccia ho fatto. La sua risposta è stata, scusa, mi hai raccontato di uno squalo morto in una mostra e io non posso mettere il coccodrillo tra i pomodori? Chiosa finale, staria anche ben, che vuol dire starebbe anche bene. Appunto. Quindi siamo tornati a quel punto, coccodrillo gliel'ho comprato immediatamente, certo, subito. E adesso è nell'orto con i pomodori. Adesso è stato sgonfio nell'orto, certo, bucato. Dopo un po' si è bucato, ma. Sì, sì. Quest'anno, infatti, visto il successo che ha avuto il coccodrillo, voleva il fenicottero, perché essendo un uccello dovrebbe spaventare gli altri meglio. Certo, certo. Effettivamente, contro i piccioni, come ci insegna Danilo Masotti, usare delle sculture di merli è fantastico, perché i piccioni hanno paura dei merli, per cui non vengono nel tuo balcone. Non lo sapevo, prenderemo in considerazione. Certo, esatto. Anche questo. Bene, e ascoltiamo un altro pezzo, dai, perché sennò poi... dopo ci si lamentano che non mettiamo abbastanza musica. Preferisci gli House Martins o com'è cavolo si chiama quella? Non mi ricordo più. O gli House Martins? Allora vada per questi. Vai. Ho messo della gran musica allegra oggi. Questa piace anche a tua nonna, secondo me. Eh sì. Are you ready? Are you ready? Are you ready? It's alright, it's alright. Hand in hand, we'll take a caravan to the motherland. One by one, we're gonna stand up with pride. One that can't be denied. Stand up, stand up. From the highest mountain valley low, together with of gold. Now the children of the world can see this is a better place for us to be. The place in which we were born, so neglected and torn apart. Every woman, every man, join the caravan of love. Stand up, stand up, stand up. Everybody take a stand. Join the caravan of love. Stand up, stand up, stand up. I'm your brother. Sister, don't you know? We'll be living in a world of peace. The day when everyone is free. We'll bring the young and the old. Won't you let your love flow, From your heart? Every woman, every man, join the caravan of love. Stand up, stand up, stand up. Everybody take a stand. Join the caravan of love. Stand up, stand up, stand up. I'm your brother. Sei pronta per la carovana dell'amore, Alice? Beh, detta così. Come fai a conoscere Pianacci? Massimiliano Pianacci ti saluta. Lo conosci, no? Ah, pensavo di sì, invece. Un saluto. Anche, no, perché mi ha scritto salutami Alice come se ti conoscesse. Invece, semplicemente è stato abbagliato dalla tua foto, giustamente. E invece Franco Grilli, troppa che grazie. Saluto, mi ha scritto Sorbole il gigante e la bambina. Grazie per il bambino. E invece la Maria Letizia Paiato, che noi ben conosciamo, scrive spaventosi, perché giustamente super. Giampaolo aveva appena scritto belli nella nostra foto, intendendo te naturalmente, che non lo conosciamo, occhi blu. E una domanda che ti volevo fare leggendo il retro di quella quarta di copertina era proprio il rapporto col denaro, cioè con il costo dell'arte contemporanea. Mi interessava di sentire cosa Vitana ne pensa rispetto a quanto costano le opere. Guarda, eccetera. Mi arriva perfetta questa domanda, perché parlavamo prima dello squalo di Damien Hirst, no? Sì. Quindi legato, oltre alla spiegazione dell'opera, il capitolo è legato al concetto di valore, no? Perché io in ogni capitolo non descrivo le opere in sé per sé, offro un attrezzo. Infatti io sto libro lo chiamo la cassetta del pronto soccorso, no? Con il minimo indispensabile per approcciarsi all'arte. Damien Hirst mi è l'imboccata per parlare del concetto di valore, tanto 12 milioni di dollari o 12.000 euro per mia nonna, comunque, sarebbero stati la stessa cosa. Mm. Sempre tanti soldi. Sì, certo. E quindi non abbiamo affrontato il tema del mercato nello specifico, però sono riuscita a farle capire che una cosa che apparentemente la trovi dappertutto, mettiamola così, sullo squalo non è che la trovi dappertutto, certo. Però per esempio il suo l'abbiamo anche lo però scuola il taglio, bottiglie, il taglio, ecco, taglio, lo scuola, queste cose, lo scuola bottiglie, il taglio di Fontana valgono, diciamo, oltre molto di più di quello che sono fatte. E anche lì mi è venuto in aiuto il suo entourage, ed è lei fa dire le messe, come non so se tu sai cosa ah, vuol certo. dire, no? Cioè durante la messa, se c'è un anniversario, se c'è qualcosa per ricordare, certo. Il prete dice il nome e il cognome. Allora gli faccio: scusa nonna, quanto costano le messe che fai fare? Beh, fa 10 euro ma conforme. Faccio, cavolo, 10 euro a nome, cioè per dire Alice Zannoni, uno 10. Prende 10 euro, ecco, mi metto a fare il prete anch'io, gli faccio. E lei mi ha detto, ma guarda che non è che paghi il nome, paghi quello che quel nome rappresenta, quindi l'auspicio, l'eterno riposo per i morti, oppure quando le faccio dire per voi e perché stiate tutti bene. Ah, le faccio, allora paghi una roba diversa, paghi il valore che quel gesto rappresenta. E lei mi ha detto sì, come se fosse la cosa più ovvia del mondo, e gli faccio, guarda, per l'arte è la stessa cosa, esattamente la stessa cosa, tu non paghi lo scolabottiglio, la lattina di merda, o paghi quello che quel paghi, il valore è determinato da quello, non è neanche proprio che il valore è determinato, diciamo che così, certo. Sui generis è determinato da quello che quel gesto rappresenta. E così l'hai convinta? Eh sì, gliel'ho fatto capire, perché in realtà non è brutto convincere, io gli ho sempre detto non ti voglio convincere di niente, se hai qualcosa da dire ben venga. Ma dunque Zita adesso si è appassionata di arte contemporanea dopo questo episodio? Ma certo. dopo questo, perché questo comunque vi siete incontrati un sacco di volte, le hai praticamente fatto una sorta di corso di storia dell'arte, sì, personale, sì. Adesso lei è esperta e mi fa sorridere, perché per esempio se adesso al TG passa qualche notizia che riguarda l'arte contemporanea, mi fa chiamare per dirmi guarda il TG perché stanno parlando di arte che ti interessa, no? Quindi la sua attenzione rispetto a qualcosa che prima magari passava inosservato, invece insomma adesso le rizzano le antenne, quindi vuol dire che non è stata indifferente a tutto questo. Io potevo dirle, nonna guarda ti spiego la fisica nucleare, lei mi avrebbe detto di sì lo stesso, perché il suo è stato un gesto d'amore, no? Certo. E poi non vedeva l'ora che tornassi a casa, non tornavo a casa mai prima, invece mentre scrivevo il libro tutti i weekend tornavo in Veneto. Fantastico. Quindi lei non gli pareva vero di avere la nipotina a casa. Ah, certo. La nipote numero uno di 11. Sì. Cavolo, una squadra di calcio. Ma no, mi è venuta in mente questa cosa, perché tu che sei nata negli anni 80 devi sapere che fino alla fine degli anni 80, quando tu eri bambina, in realtà il TG parlava un sacco di arte contemporanea, poi improvvisamente con gli anni di Berlusconi l'arte contemporanea è scomparsa dalla televisione italiana, e adesso piano piano, ma veramente piano piano, sta ricominciando ogni tanto ad apparire, ma è cambiato tanto la faccenda. Io negli anni 80 guardavo i cartoni animati, certo. Per cui di certo sono le notizie di arte contemporanea. Però sai che il TG2 praticamente faceva una mostra diversa a pranzo e una mostra alla sera, e cioè anche arte antica, arte storica eccetera, però almeno in una settimana almeno 6 o 7 mostre importanti di arte contemporanea venivano raccontate al TG2. E siamo ottimisti su questo piano piano che riprende. Esatto. Secondo te come sta andando la faccenda? Perché c'è un gran lavoro da fare. Esatto. E tu comunque hai fatto hai contribuito con un bel oggetto, devo sì, dire. Perché non posso lamentarmi e poi non agire. Assolutamente, quello è quello che faccio anch'io. Non posso lamentarmi e poi non fare coxo spaziale per spiegare ai miei nonni virtuali che ci ascoltano l'arte contemporanea, tipo Giffo, che praticamente ha la mentalità di un nonno, per cui secondo me se gli portiamo il libro lo sveglia, soprattutto se glielo porti tu, secondo me si sveglia abbastanza, anche Pianacci secondo me si appassiona di arte contemporanea. Beh, potrebbe essere un buon motivo. NFC Edizioni, grande casa editrice di Rimini. Rimini, ah ma dai, di Rimini. Sì, salutiamo anche l'editore Amedeo, certo. Bartolini, che hanno creduto in te. Che hanno creduto in me, perché questo libro, quando ancora non era un libro, era un appunto scritto su un foglietto, io gli ho mandato in amicizia all'editore un WhatsApp e lui mi ha detto lo voglio, non ho risposto nient'altro, lo voglio, lo finanzio io. Fantastico. E così è partita l'avventura. E stiamo per stampare la terza edizione. Oh yes. Oh yes. Sì, ma recente notizia, e mi ha detto guarda lì qua non ne ho più di copie in magazzino, bisogna che andiamo con la seconda ristampa. Con la seconda ristampa, cavoli. Sì, dai, sono gran numeri considerando che comunque l'editore, pur umanamente essendo un grande editore, è un piccolo editore di Rimini, per cui i risultati ottenuti sono incredibili. Shirley Bassi era il nome che non mi ricordavo. lo ascoltiamo ora. Ah, un gran pezzo. Tu avevi forse 11 anni, 12? No, aspetta, questo è almeno del 98, no, ne avevi di più. Qualcuno di più. Eri in piena adolescenza. The world is about, there's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating. The newspapers shout, a new style is growing, but it don't know if it's coming or going. There is fashion, there is fat. Some is good, some is bad. And the joke is rather sad that it's all just a little bit of history repeating. And I've seen it before. Feel the pain, feel the joy, and sidestep the little bits of history repeating. La storia che si ripete. E Alice, dove sta andando l'arte contemporanea secondo te? Una domanda da un... una domandina da niente alla fine di Coxo Spaziale. Dove sta andando? Non lo so. Quale sarebbe la direzione giusta? Forse adesso un po' eccessivo. Dove dovrebbe andare? Ecco, forse questa è un po' più corretta. Credo che l'arte debba ricominciare a raccontare. Mi rendo conto che spesso non racconta, spesso è un discorso autoreferenziale dell'artista, no? E io credo che l'artista in realtà abbia, perché io mi sento privilegiata a fare questo lavoro perché posso vedere il mondo da punti di vista che diversamente non potrei vedere. Lavorare con gli artisti è come avere continuamente degli occhiali che ti permettono di mettere a fuoco delle situazioni in maniera diversa. Questo non avviene sempre, quindi quando la maggior parte dell'arte ricomincerà a raccontare il mondo nelle sue sfaccettature, ecco, forse quella è la direzione giusta, però insomma adesso non vorrei... Ok, e dunque sì, fondamentalmente siamo d'accordo sul fatto che tanta arte si è chiusa in se stessa e non racconta più niente, no? Cioè sì. Non è che non racconti più niente, racconta un processo appunto autoreferenziale, ma non ci tocca il cuore. No, non sempre tocca il cuore. Poi ci sono le eccellenze. Certo. Ci sono artisti sconosciuti che ti fanno toccare te cuore il cuore, ci sono artisti che non costano molto, che ti emozionano. Non è fare una questione né di valore né di mercato, poi certo. Nello specifico io vedo che almeno personalmente quando trovo qualcosa che racconta del mondo, ecco, allora l'arte ha un senso. Bene, e con questo ci salutiamo. è stato un piacere averti e ti ringrazio per avermi portato una copia del libro che adesso prima leggerò io e poi porterò a mia madre da leggere, perché bene, so che si divertirà. Benissimo. E poi naturalmente quando, dove saranno le prossime? L'hai presentato un sacco a Bologna, l'hai presentato un sacco di volte, però sì, beh, non, ho fatto, guarda, 25 presentazioni fino adesso in giro per l'Italia. Domenica faccio l'ultima del 2018, okay, in Liguria, e poi calendario 2019 già in preparazione, per cui finché va si va. Finché va si va. Sì. In ogni caso comunque da domani su www.coxospaziale.blogspot.com, a momenti mi impappino anch'io, troverete tutti i riferimenti per acquistare. Ma sì, poi si trova in tutte le librerie, per cui la distribuzione è nazionale. Fantastico. L'arte contemporanea spiegata a mia nonna, ridere, piangere e capire, con Alice Zannoni e Vita Urbani, del 1926. Fantastica. Allora salutami tanto la nonna. Sarà fatto. Ti ringrazio di nuovo e noi ci risentiamo con Fedra venerdì prossimo. Anzi, mi dice Fedra che sta ritornando Pappalardo, quello della cucina notturna, per cui state un po' attenti perché ci toccherà di ricominciare a mangiare, così. E allora ciao Fedra anche, che certo, mi sono persa stasera, e alla prossima. E un passo avanti. Hey you, alla volta. Questo era Coxo Spaziale, io ero Stefano W. Pasquini, ci risentiamo venerdì prossimo. Ciao. Ciao. So if you coming off the street and you're beginning to feel the heat, well listen Buster, you better start to move your feet to the rockin'est rock steady beat of madness. One step beyond.